qualcuno qua. Hola. Hola. C'è qualcuno qua? Attenzione, dici. Hola. Hola. Hola. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto. Hola, CQ10. Hola, c'è qualcuno qua? Attenzione, canale 10. Hola. Hola. Hola. C'è qualcuno qua? Stavo ascoltando e pensavo se c'è qualcuno, e invece tutto a posto. Sì, ciao Robè. Sì, tutto a posto. E niente in ordine. Un po' affaticato, cos'è? Il microfono o il sciatone? No, è un microfono un palmare con balacchino da un watt. Se c'era qualche donato che ho visto ha mandato una portata. Avanti, chi vuole entrare? Nulla, riprendi tu giù. Sì, anche io poco anzi ho sentito anche il bip. Hanno messo una portata, però no, ho detto di entrare, ma non si è fatto avanti, per cui va bene lo stesso. Sì, no, se non è forza, 9+20 qua, arrivava. No, ho fatto una carrellata dei canali, c'è un sacco di roba di propagazione in banda laterale, ho visto, però un secondo, non è che mi sono divertito a ascoltare. Sì, anche io ho fatto un giretto in banda laterale con l'altro baracchino, ma non mi interessava, capito? Era un pochettino giù nelle altre bande, ma c'è un po' di confusione. La propagazione è scarsa in certe zone che mi interessano, per cui tra Fa Napoli. Ho acceso un pochettino, solo niente di che tanto tra poco devo uscire. Dove vai? A vedere la cavalcata? Non ho capito giù cosa hai detto? Se devi andare a vedere la cavalcata, ho detto. No, devo andare con i cognati, andiamo a pranzo fuori, e noi eravamo con i parenti di una parte, adesso vado con l'altro parente, ad Alghero. Ho capito. Va bene così, bisogna distrarsi di tanto in tanto, perché se no la vita diventa troppo monotona. C'hai ragione, fui, non sei tutta la settimana a lavoro, poi sabato ho trovato qualche animale, mio animale, qualche attimo per pochettino, per toglierti lo stress. Sono pure appena rientrato dalle ferie lunedì ed eri te abituato male, dai, come si dice, a non far niente, a stare in giro, che poi ti stanca, vero? Più stanco di quando stavo lavorando, che ho fatto un sacco di chilometri, perché i chilometri non erano tanti, però fatti tutto in una volta sono tanti e ti sta, poi con quel camper c'è un caldo da morire, quando ti fai le trasferimenti, non hai né aria condizionata né niente, abbiamo un caso da muri, un po' rumoroso il motore perché sono motori di vecchia generazione, non è come la macchina, ti alzi i finestrini non senti niente, di lì anche se alzi i finestrini muri dal caldo, o come si dice, muore di lampi o muore di drone, se te li abbassi c'è un po' di rumore di motore, però ti entra un po' di aria almeno. Ok, dirò a te Giulio. Ok, vabbè, io ho fatto una passeggiatina in corsa che avevo fatto. Ma tu mi chiami quella cosa, non quella cosa, non perché le macchine sovramodulavano queste propagazioni. Tu sei 9.10, eri arrivato a 9.10, fate tre cose, pensavo ci avesse la televisione accesa e tu sotto, invece sono in banda laterale, molto furti. Ho capito, vabbè. Lo so, quando è in banda laterale va bene. No, poi ogni tanto c'è l'imbecille che mette la portante, ma quello già lo sappiamo, è malato mentale, per cui non c'è da meravigliarsi. Quelli ci saranno sempre purtroppo, cosa ci puoi fare? Bisogna prendere la vita e la radio per quella che ci sono quelli che si divertono così, poi ci sono quelli che fanno la radio come diversivo, come me, per svagarti e trovare un attimo di cosa, di diversivo. Però c'è qualcuno che ci prende gusto a disturbare, ma senza dare troppa importanza, se noi picci, se ti arrabbi ti fai vedere vita come faccio io. A parte credo che a me non me l'abbiano mai messo, o se me l'hanno messo non me ne sono mai accorto. Per cui se dovessero mettermi le portanti danno fastidio, spegniamo l'apparecchio e facciamo altro, ne ho tante di cose da fare, anche più importanti della radio. E glielo credo. Vabbè, sai cos'è? È una questione anche di principio, per quale motivo un deficiente deve andare a disturbare gli altri, perché lui è convinto, per dire, se io modulo, non mi metti la portante, tanto per fare un esempio, non è che stai disturbando a me, stai disturbando quelli che non ascoltano, perché io a un certo momento non mollo e tu stai interferendo e stai obbligando agli altri a non ascoltare, e così per cui ho la mancanza di rispetto per tutti indistintamente, anche se uno magari è preso di mira da un deficiente. Lo so, tu già ne sai qualcosa molto più di me, perché è capitato spesso a te, si divertiva così, purtroppo, e cosa li vuoi fare? Non puoi farci niente, io la mente di una persona, il carattere, se è nato così non lo puoi cambiare, è come quello abituato a rubare, così dalle 9 anni dice sì, non faccio più quello che ho fatto, ma lì ci prova, però l'istinto di coso ce l'ha sempre, c'è gente che si diverte così, è convinto poi di nascondersi dietro un microfono, come quello che ti graffia la macchina, e avanti ho fatto video e fammelo in faccia, se c'è coraggio o se c'è cosa da dirmelo me lo dici in faccia e vediamo, poi se mi piglio un po' in faccia te ne do uno io, è diverso il discorso, però almeno non ti nascondere dietro il microfono. Purtroppo è questo il discorso della radio, c'è gente, anzi devo dire io sono nuovo, ci sono dal 2004, già lo sai, rispettate che ci sei 40 anni prima di me e ne avrei visto molto molto di peggio, adesso i canali sono pochi, cioè pochi, le persone sono poche, il canale forse c'è solo il 10, qualche volta qualcuno si sposta su altri canali, ma normalmente è il 10, ci saranno contandole in tutto non più di 15 persone, non dico che praticano tutte assiduamente, ma oggi 3, l'altro giorno 4, l'altra volta 2, adesso siamo in 2 noi, per cui cosa ne hai, non hai più compreso, se non ti piace vattene da un'altra parte, ti metti in un canale vuoto e ti giochi a mandare portante, non disturbi a nessuno, di nuovo a te Giulio. Infatti io quando c'è Giulio non riesco mai a parlarci perché le mettono la portante. Comunque buongiorno e buona domenica a tutti. Ciao Claudio, ben sentito, vai giù. Ciao Claudio. Purtroppo c'è sempre il suo deficiente che, ma appunto stavo dicendo che il dispetto non è che lo stanno facendo a me, lo stanno facendo a tutti quanti, perché se io parlo e gli altri non mi ascoltano, ecco che il dispetto lo hai fatto a chi non ascolta, non a me, perché io in questo momento sto parlando, tu stai mettendo la portante, ma il dispetto è per chi non ascolta, io la penso così, è una questione anche di educazione, giustamente. Infatti io ho detto ogni volta che magari ho voglia di farmi due chiacchiere, che ci sei tu a parlare con te e con gli altri, io spengo perché non vi sento, quindi è una cosa generale, capito? Non sta disturbando solo a te, sta disturbando a chi veramente vuole fare due chiacchiere. Tant'è vero, io poco ci sto entrando perché ogni volta è sempre la stessa storia. E come Roberto io ho imparato a non adirarmi più, mi sono ritirato da tutto e da tutti, quindi se posso parlare parlo, se no mi accendo l'altra radio e parlo da tre parti. Ripeto, buongiorno e buona domenica a tutti, dai vi ascolto che qua stanno facendo pulizia, c'è un casino di Gesù Cristo, vai Roberto. Ehi, Claudio ha già la capita, è lui arrabbia, se deve arrabbiare Edo vuol dire che non ha fatto effetto, se lui disturba, beh ciao, cambia canale, finalmente. E lui vedi che poi piano piano alla fine si tuffa di farlo, almeno si spera a questo. Claudio molte volte infatti dice, ma andate rubare di qua arrabbia, che altri rubare di qua, cioè te la prendevi a cuore, ti rovini il fegato, ma per chi? Alla sapere. Ce ne abbiamo altre possibilità, Claudio, di andare da altre parti. Giulio purtroppo è limitato qua alla 27, però ci sono altri sistemi, c'è anche quello CBTOC se uno vuole guarda, anche se lì è diventato un coso di lasciamo perdere, dai. Ogni tanto accendo, ma sta diventando peggio di lasciamo dire, dai. Di nuovo a te, comunque buon tutto Claudio, anche io rimango ancora un pochettino che poi devo uscire. Buona domenica, saluto a tutti in casa e auguri per il lavoro di Ilaria, che oggi se ne farà bene il mazzo. Giulio a te. Ok, sì, ma è così Roberto, figurati, ma infatti io non è che ne arrabbio, ma io dico solamente una cosa, no, perché la gente dice ti stanno mettendo la portante, no, stai sbagliando, ti stai esprimendo male, ci stanno, devi dire, ci stanno mettendo la portante, perché la mettono a me per non ascoltare tu, dunque mi sembra che questa sia la logica dell'italiano, della lingua italiana, oh Roberto, io l'ho preso così, tutto lì. E vabbè, cambiamo discorso, se non ci prolunghiamo per dargli troppa importanza a questi episodi. E nel calcio cosa mi dici, Gesù? Che la Juve è una squadra di cadaveri, soprattutto a livello di allenatori, per cui sono sicuramente convinto, guarda, l'ho anche scritto su WhatsApp, l'ho anche scritto. A me mi sembra che i giocatori a un certo momento, dopo che hanno segnato un gol che passano in vantaggio, poi rallentano proprio perché? Perché non vogliono più Allegri. Ma guarda, io sto pensando a una cosa, io anche Allegri l'apprezzo, magari sono controcorrente, però non è un cattivo allenatore, il problema è gestire quei giocatori lì, perché tu puoi essere un bravo allenatore, però la gestione è un po' complicata. Dopodiché io dico una cosa, secondo me la Juve si sta limitando, soprattutto ieri, perché stanno pensando alla partita del Paris Saint Germain e se avevano paura magari di fare infortuni, contratti, eccetera, eccetera. Io ho visto il Milan poi giocare, non so se ti è capitato di vedere, Milan in Inter, sembrava un campionato inglese contro un campionato di quelli scarsi, tipo quelli francesi o cose del genere, olandesi, dove il ritmo è molto più lento. C'era una grinta di quei ragazzini di età media intorno ai 21, 22, 23 anni, detto lì qualcuno un po' più grandicello, ma una grinta sino alla fine, magari hanno avuto un attimino di rilassamento nella zona del gol, però io l'ho visto quando hanno vinto la settimana prima, lottando sino all'ultimo secondo, correndo, è una cosa spettacolare vedere giocare, come attaccano tutti compatti, tutti insieme difendono tutti, anche se devo dire in due contropiede hanno rischiato di cose, vabbè, un momento di rilassamento ci può stare, però è un piacere vederla giocare l'Inter, come era un piacere vedere l'altra giornata l'altro, ieri ho visto, intravisto, perché eravamo in pizzeria, abbiamo visto così di sfuggita la partita, non la seguì bene, anche la Lazio mi è piaciuta, non ieri, quando ha giocato con l'Inter, e ti posso dire, fa piacere vedere quando la squadra lotta, magando stasera, mezz'ora, passaggetti, rientro, fa... cioè non c'è il ritmo, a me il calcio non mi piace più, di nuovo a te giù. Ok, sono ben, sì, beh, in effetti il calcio è calato moltissimo in Italia, no, non ne vale più la pena guardarlo, guarda, non ne vale veramente la pena. Adesso io dico questo, ma tu mi dici, un allenatore bravo o Allegri? No, io Allegri non l'ho mai considerato un allenatore, casomai è un aggregatore, questo sì, aggregatore senz'altro, è uno che è capace di mantenere il gruppo unito, o perlomeno lo spogliatoio unito, però come allenatore non ha mai avuto idee, perché lui non ha dato mai un gioco alla Juve, ha vinto sì 5 anni di seguito, perfettamente d'accordo, ma sull'onda della spinta tecnica che aveva dato a quella squadra un certo signor Conte, quello è un allenatore che ti fa correre anche se non hai voglia, quello sì, e poi in quel periodo c'erano grandissimi campioni che poteva vincere alla grande con qualsiasi squadra, perlomeno parlo in Italia, anche perché in quegli anni Inter e Milan finivano a 30 punti, dunque non c'era concorrenza, per cui Allegri non ha dato mai un gioco alla Juve, mai, mai, mai, i meriti ce li ha presi lo stesso, glieli hanno attribuiti, però lui meriti non ne ha mai avuto nei confronti della squadra, vai Roberto. Allora, il discorso, allora, a me di Allegri mi piace che lui sa leggere la partita, cioè fa i giusti cambi, raramente li sbaglia e cambia, al contrario di moltissimi allenatori. Il discorso del calcio di Allegri è un calcio antiquato, però lui è molto cinico, guarda molto il risultato, cioè da dire, io non sono juventino, tu sei juventino e magari ti piace anche vedere il bel gioco, purtroppo molte volte il bel gioco c'è il risultato, non c'è, lui vince una partita al 90esimo per 1-0, per dire, e gli va bene, ci sono altre squadre che magari fanno 3-1, 3-2, 3-3, lui guarda molto la protezione della difesa, anche se devo dire c'ha dei giocatori che secondo me non ci stanno a fare niente della Juve, tipo Alexandro e Quadrado, sono due giocatori in meno, spingono però non hanno copertura, almeno per come lo vedo io il calcio, ci vogliono difensori rapidi a recuperare e soprattutto a difendere, non è solo a spingere. E dopodiché devo dire una cosa, in difesa della Juve gli manca mezza squadra, perché se tu inizi a mancare Pogba, l'altro come ti diciamo, quell'altro giocatore che ha 50% che è arrivato adesso, poi li togli l'altro, quello quattro giocatori, lui secondo me dovranno prendere un attaccante di peso, perché Vlahovic è buono, però dietro chi c'hanno? Cioè se si fa male lui chi c'è? Stanno giocando con una punta, dovrebbero giocare secondo me con due punte, come gioca più o meno il Milan, con quell'attaccante fortissimo, rapido e coso. Giroud poi quando rientra Ibrahimovic, c'è poi entrato ieri Origi, che è un fenomeno quel giocatore, fortissimo, non lo conoscevo, c'ha dei giocatori rapidi, fortissimi e velocissimi, quelli del Milan. La Juve c'ha solo Vlahovic, quando ne togli a lui, chi c'è? Dimmene uno tu che puoi giocare al suo posto. No, ma non è questione di Vlahovic. Vlahovic sicuramente è un grande giocatore, non ci sono dubbi. Come lo è anche Milik, perché adesso anche Milik, a me piace Milik, quando giocavo con Napoli e la micidiale Milik. E sono convinto che ancora oggi è forte, perché dove giocava ultimamente ha segnato tantissimi gol ugualmente. Solo che c'è questo. Tu a un attaccante come Vlahovic non gli puoi far toccare solo o 9 palloni. Questi sono numeri, non è una mia invenzione, questi sono numeri di lettura della partita. Tu a un attaccante come quello non gli puoi far toccare solo 9 palloni. Io sto parlando ad esempio della partita con la Spezia, per non parlare poi con quello con la Sampdoria. Il discorso è sempre questo: se tu i palloni non ne mandi in attacco e giochi sempre nel tuo centrocampo, cioè nel tuo campo riservato a te praticamente, dal centrocampo in giù, no, la squadra che ha voglia di vincere deve attaccare sempre, continuamente, fino al 95esimo minuto, perché è così che si vince, attaccando, perché quando tu attacchi metti in suggestione anche la squadra avversaria, invece lui fa uno e subito tutto in difesa. Ti tocco, destra, sinistra, sinistra, destra, palla portiere. Ma così non ne vengono di gol, non ne possono avvenire, non è possibile. L'attaccante così palloni non ne prende, non ne avrà mai. E di questo discorso, Robè. Infatti c'hai ragione tu pure, perché allora, il Milik a me mi piace tantissimo già da quando era, però non è una prima punta, cioè secondo me il calcio attuale non può giocare con dei punti di riferimento, solo un unico punto di riferimento, come si chiama, Vlahovic, è un unico punto di riferimento, cioè solo soluzione verso di lui, e inoltre dice due pallone a Quadrado, lo do all'altro che c'è a sinistra, ci vogliono sempre dei riferimenti, ma non uno soltanto, almeno due, per cui secondo me l'errore di quella squadra lì che giocano soltanto con un riferimento, e poi ci sono dietro le punte, adesso c'è Milik, poi ogni tanto ci sono degli inserimenti, però secondo me ci vogliono due punte di ruolo, una rapida, veloce e una forte fisicamente, come può essere Vlahovic che trova anche la porta, però ci vuole anche uno di sostegno, in modo che tu c'hai due soluzioni, il centrocampista della Juve, dice il pallone a te lo devi dare sempre a Vlahovic, non hanno altre soluzioni, oppure allargarsi giocandolo su Quadrado e poi lui fa il cross a Vlahovic, non hai soluzioni oltre a quella, per cui li prendono la contromisura e finito. E questo io chiaramente dico a questi livelli, soprattutto squadre di quei livelli lì, possibile che non se ne siano accorti né la dirigenza e né l'allenatore soprattutto. Ci vuole un altro giocatore davanti che faccia, dai, dia opportunità di passaggio, è inutile che tu dai sempre il pallone a Vlahovic, bloccano la fonte del gioco e è finito. La Juve, come hai detto tu, si trova con 9 palloni durante la partita e non so niente per un attaccante. E tra l'altro ha l'unico giocatore, è come quando c'era Vieri nell'Inter, dove cavolo era, adesso non lo ricordo, tutti i palloni lì, Lukaku, tutti lì, li devo tirare in profondità, però l'Inter c'aveva anche Martinez, Lautaro Martinez, uno rapido, sul breve era velocissimo, quello sul lungo andava bene, però devi avere due alternative, non puoi giocare solo con un'alternativa, e questo secondo me è l'errore più grande, perché stanno riempendo di centrocampisti, non c'è un giocatore d'attacco, mettono a quel Ken che è disordinato, buona volontà, ma non è Bojuga, non è a livello di Juve, quello va bene, è una squadra che si deve salvare, si butta in mezzo, crea confusione, ma ci vogliono giocatori tipo quel Suarez che dovevano prendere, o io per fare un nome Suarez, Mario Balsera anche antipatico, ma ce n'erano giocatori, anche Belotti, quello che è il coso, fidati Belotti, era fermo, gratis, te lo prendete invece no, di nuovo a te giù. Sì, ma il discorso è sempre quello, se tu non hai un allenatore, se si obbliga a giocare in attacco, parlo in attacco, ma non in attacco a centrocampo, in attacco devi giocare nell'area avversaria se vuoi vincere, perché se no i gol non li farai mai, non è possibile, guarda, non è possibile poter giocare così, se tu giochi nelle sue retrovie, un tiro adesso, un tiro dopo, un tiro più tardi, un tiro all'inizio o alla fine della partita, finisce che tu la partita la pareggi, anche se stai vincendo per 90 minuti, al 93esimo, come gli è già successo, riescono a pareggiare la partita. Come ieri, lo stesso, hanno incominciato a tirarsi indietro, hanno abbassato il baricentro. Cosa è successo? È successo che hanno anche subito un rigore. Fortunatamente, lo ripeto, l'ha sbagliato Juvic, se lo poteva anche ieri da Juventus. E tutto questo perché il rigore è stato causato da Paredes, non è l'ultimo adeguato, è un giocatore, però lo sai benissimo, non ci vuole niente, uno tira il tiro, ti va sul braccio, in quel momento ti trovi col braccio largo, il regolamento è quello che è, e ti mette il rigore, ti danno il rigore contro. E il discorso è sempre questo, la squadra che ha voglia di vincere e che deve vincere una squadra come la Juve, deve giocare in attacco, non può giocare nella sua metà campo, nella maniera più assoluta, così non si parte mai da dietro, e poi i lanci in verticale non ne fanno mai, questi tocchettini così, tutti in orizzontale, poi a un certo punto finiscono e perdono anche il pallone, e quelli riescono anche a farsi gol, ma non è possibile, dai, vabbè, non si gioca a calcio così. Non so, però diciamo siamo all'inizio del campionato, poi correttivi importanti, anche ancora non ne ha perso, l'Inter ne ha già perso due di partite, però ha troppi pareggi, diciamo questi pareggi non è che ti portano un punto, perché quasi quando una sconfitta un pareggio, vediamo un pochettino, lasciamo un secondino di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare nel frattempo, io ancora qualche minuto, Giulio se poi devo andare via, avanti chi vuole entrare qua sul 10, certo si è abbassato il QRM, adesso ce l'ho a 4, ma è successo che il QRM scendesse così basso, poco fa era a 7-8. Di nuovo a te Giulio, un paio di minuti e poi interrompo le trasmissioni. Tempo al tempo, non abbiamo centrocampo, manca Pogba, manca Chiesa, tempo al tempo, l'importante è che non perda. Scusa un attimo Giulio, una domanda, l'MC50, se tu il microfono dell'MC50 lo metti solo per curiosità, non per farlo, al posto dell'MC60 funziona? Ci vuol dire al posto dell'MC60? Io stacco il cavo dell'MC, come si chiama? Quello attaccato alla base del microfono, dell'MC50, c'è il cavo che arriva alla base dove c'è il PTT, stacco quel tutto intero il microfono, lo attacco alla base dell'MC60, l'hai mai fatto? Funziona? E l'hai guardato tu prima di parlare? Non ti sei accorto che le condizioni sono diverse, che una a 4 e l'altra a 8? No, non l'ho guardato, infatti lo sto chiedendo a te, non l'ho mai staccato, era a me, adesso mi è venuto in mente, perché li sto guardando, uno con l'altro sono molto simili come concezione, però il connettore mica l'ho smontato, però dico magari uno dice ci voglio fare una cosa, comunque teoricamente se uno cambia le connessioni potrebbe farlo andare. No, maschio e femmina sono diversi. Come non detto allora. Ok, signori, io vi devo lasciare perché adesso devo uscire. Saluto a Giulio, che è stato il primo che è entrato, poi a Claudio e eventuali amici SWL. Buon proseguo se dovete rimanere, buon tutto e buona domenica se per caso dovete fare qualcos'altro. Io scappo, che devo andare fuori. Ciao ciao di nuovo, correti. Ciao ciao Roberto, vai a vedere la cavalcata, fatti grazie Garibini. Vai Giulio. Ok, ciao Robè. Comunque non è questione di Pogba o Claudio, assolutamente. Pogba il Juve ha fatto un errore secondo me a prenderlo. Comunque devi pensare solo a quello. Pogba ormai è rotto, non sei più, non è quel Pogba quando era con la Juve. Tu basti pensare che ha giocato 6 anni con il Manchester. In questi 6 anni, io parlo di numeri, non parlo solamente così a vada, parlo di numeri. Pogba è stato assente per 77 partite. Sai cosa sono 77 partite? In 6 anni, 6 campionati, ne hai perso 2. Pogba è un giocatore ormai che non va più per una grande squadra. Va bene per una squadra, una media squadra così di certo classifica, può ancora giocare. Però ormai è rotto, non serve più Claudio. Io comunque ho visto una Juve sicuramente migliore dell'anno scorso, con una partenza un po' diciamo più insomma organizzata, non lo so, partite non ne ha perso purtroppo, con la Roma poteva vincere, ma la difesa è sempre a farfalle, con la Fiorentina poteva vincerla, vabbè, tieni conto, la Fiorentina ha sbagliato un rigore, per non dire che gliel'ha parato, ma comunque per me è sbagliato perché l'ha toccata e ha preso il fallo, quindi vabbè, però vedo qualcosa in più dell'anno scorso. Poi ti ripeto, il campionato sta iniziando, sono tutte lì le squadre, la vincente sicuramente anche quest'anno il Milan, perché l'ha dimostrato, c'è una grinta favolosa come ha detto Roberto, e poi insomma tutte gli altri, però io voglio avere la squadra al completo con tutti i giocatori della prima rosa, perché il ragazzo di McKenny, questi giocatori che mette, che cambia, che fa, io l'avrei mandati in tribuna, non in panchina, tutto qua. Ma cosa vuoi che ti dica? Non è possibile, guarda, io so solo una cosa, quante partite hanno giocato? 4 o 5 mi sembra, ha già perso 6 punti, ha già perso 6 punti e le ha perse con le squadre peggiori del campionato fino a questo momento. Sto parlando di Spezia, Sampdoria e Fiorentina. Tu pensa che la Fiorentina era 4 partite, non una, no, 4 partite e non segnava una rete. Incontra la Juve e ne strappa il pareggio. Ma te ne rendi conto? Questi sono numeri, Claudio. Nel calcio bisogna tenere in considerazione i numeri, non solamente a dire io a Vlahovic o anche Di Maria, eccetera, eccetera. E quei numeri contano. Non me ne ha fatti niente se tu vai a Messi e poi non fai il risultato. Aspetta adesso contro il Paris Saint-Germain. Vedrai quanto le prende. Le prenderà almeno 4, 5, 6 anche. Vedrai. Vai, Claudio. Sì, vabbè, ti ripeto, vediamo come si presenta, non lo so, vabbè, comunque, sicuramente non fa niente neanche quest'anno, adesso martedì è in Champion, vediamo se si scende lo giorno, non manco in Champion, non lo so, poi si vedrà, vabbè. Dai Giulio, mi ritiro che qua, ti ripeto, stanno facendo pulizia, devo uscire dalla stanza, dovremmo lavare per terra, devo farci l'aspirapolvere, eccetera. Semmai se ci sei ci sentiamo dopo, ok? Ok, claro, alle prossime, dai, ci sentiamo. Ciao, ciao, attendi pure, ci sentiamo prossimamente, se è possibile. Se ho pazienza, dai, ciao, ciao. Sì, lascio il acceso, poi quando hanno terminato già riprendo, se no sono in mezzo ai piedi, me ne vado.